Ci occupiamo della seconda edizione del Festival dello Spettatore ad Arezzo dal 4 all'8 di ottobre. Ne parliamo con Massimo Ferri. Tanto ben ritrovato su queste frequenze. Ciao, buongiorno, ciao. Allora, alla prima edizione c'ero anch'io, perché insomma un festival non distante in una bella cittadina, un curioso festival dello spettatore. Poi c'erano Flavia Mastrella e Antonio Rezza, era un appuntamento imperdibile. Allora, raccontiamo a chi ci ascolta di cosa si tratta. Sì, l'idea del Festival dello Spettatore è nata appunto l'anno scorso da un'esperienza, diciamo, pluriennale della Rete Teatrale Aretina sul lavoro di coinvolgimento degli spettatori, un coinvolgimento attivo, quindi spettatori che si scelgono una propria stagione tra i teatri della provincia, quindi un percorso che si chiama Gli Spettatori Erranti, che esiste da anni, e attorno a questa idea, a questo progetto, è nata appunto l'idea di fare un festival in cui il fulcro, il punto principale fosse appunto il ruolo dello spettatore. E il festival ha sia spettacoli, ovviamente, perché poi gli spettatori devono anche vedere degli spettacoli, se no che spettatori sarebbero, spettacoli vari di danza, di teatro, di proiezioni cinematografiche, spettacoli musicali, quindi spettacoli di vario tipo, tutti comunque di drammaturgia contemporanea, tutti, diciamo, di un certo taglio, e poi anche però occasioni di incontro tra il pubblico e gli artisti, occasioni dedicate agli operatori per confrontarsi sulle metodologie, sulle tecniche, sulle progettualità dedicate al coinvolgimento attivo del pubblico, e occasioni anche di incontro tra gruppi di spettatori, perché dall'anno scorso facciamo quella che chiamiamo la gran reunion degli spettatori, per cui gruppi di spettatori organizzati che vengono da tante parti d'Italia si incontrano ad Arezzo per confrontarsi sulle proprie esperienze, sulle proprie attività, ecco. Senti, intanto ti chiedo un bilancio della prima edizione che poi ha portato a preparare questa nuova. Sì, dunque, diciamo, noi l'avevamo chiamata edizione zero perché, come dire, era un po' un esperimento, nessuno l'aveva mai fatto, una iniziativa di questo tipo dedicata al pubblico. Poi però è andata davvero molto bene, sia come partecipazione di pubblico che per l'attenzione dei media locali, ma anche nazionali, diciamo, per quello che riguarda l'ambito, il settore dello spettacolo dal vivo, degli operatori, della partecipazione, ha partecipato l'università, hanno partecipato le scuole. Da quel progetto è nato per esempio un rapporto bellissimo con il liceo psicopedagogico di Arezzo, per cui un gruppo di ragazzi di quel liceo seguiranno poi per esempio quest'anno il festival, lavorando direttamente al festival, hanno scelto uno spettacolo, sono partiti con un'esperienza di gite contemporanee, cioè di gite scolastiche che non, invece di essere fatte, diciamo, per visitare luoghi di, diciamo, interesse turistico, vanno in gita a un festival teatrale, per esempio. Insomma, tutto questo ci ha fatto pensare che la strada era giusta, ecco, che fosse giusto insistere su questa esperienza. Si sono allargati i partner, quest'anno collaboriamo anche con Capotrave, per cui uno spettacolo con la residenza Capotrave Kilowatt, per cui uno degli spettacoli del programma, anziché ad Arezzo, si terrà a Sansepolcro, nello spazio gestito da loro, e per esempio l'apertura domani mattina del festival sarà un convegno su ovviamente sulle tematiche del festival, organizzato da Fondazione Toscana Spettacolo a Firenze, quindi si è anche allargato il cerchio dei partner di questo festival. Senti, questa esperienza sta producendo anche un elaborato, una documentazione? Sì, sul sito spettatorierranti.it si trovano i contenuti dell'incontro di un paio di incontri importanti dell'edizione scorsa, così come alla fine dell'edizione di quest'anno, tempo, diciamo, di sbobinare, metteremo i contenuti dell'incontro del 5 ottobre, che è dedicato all'esperienza delle residenze artistiche toscane, ma non solo, e che si occuperà di una valutazione di come l'attività culturale possa rappresentare una ricaduta sul territorio in termini anche economici e sociali, e quindi appunto i contenuti saranno pubblicati sul sito, e poi ovviamente anche il risultato dell'incontro della reunion degli spettatori. Posso dire due cose sugli spettacoli di quest'anno? C'è tempo? No, ti volevo fare proprio una panoramica per parlare un po' di come è organizzata, come sono organizzate queste giornate dal 4 all'8. Ok, allora, come ti dicevo, domani mattina partiamo da Firenze con questo convegno, i pubblici dello spettacolo. Contemporaneamente ad Arezzo ci sarà il primo spettacolo rivolto ai ragazzi della scuola primaria, ovviamente avendo un'attenzione particolare allo spettatore, anche gli spettacoli rivolti alle scuole sono preceduti da incontri di didattica della visione fatti a scuola, per cui i ragazzi vengono in qualche modo introdotti alle tematiche dello spettacolo. Poi c'è la presentazione del libro di Giulia Alonso, Oliviero Ponti di Pino, Dioniso e la Nuvola, e poi un incontro importante perché alle 18:30 avremo il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il direttore della Reggia di Caserta, quindi due importanti istituzioni di tipo museale, quindi che non si occupano di spettacolo ma di valorizzazione dei beni culturali, proprio perché abbiamo pensato di estendere l'attenzione e di considerare lo spettatore in realtà come un fruitore, un partecipante attivo alla cultura in senso generale, quindi non solo allo spettacolo ma anche ai beni culturali. Quindi verranno a raccontarci le loro modalità di approccio, di coinvolgimento del pubblico. Sempre per rimanere in tema di beni culturali, la prima proiezione, il primo spettacolo sarà un film sugli impressionisti, quindi un film documentario dedicato alle collezioni del Museo d'Orsay di Parigi, della National Gallery di Londra e del Museo di Filadelfia, e quindi diciamo il primo giorno è dedicato più alla parte dei beni culturali. Giovedì avremo l'incontro di cui ti parlavo sulle residenze, poi uno spettacolo di danza della compagnia Sosta Palmizzi alle 18:30, e poi alle 21:15 sempre domenica, che è lo spettacolo del collettivo Controcanto, che è lo spettacolo che vincitore del premio In Box 2017. Quindi, come dicevo prima, c'è una grande attenzione alla drammaturgia contemporanea, ai nuovi linguaggi e a spettacoli diciamo che escono un po' dal tradizionale. Venerdì sarà una giornata dedicata al pubblico, diciamo, scolastico, perché lo spettacolo Albania casa mia di Argo sarà replicato due volte, al mattino per le scuole e alle 18:30 per tutto il pubblico, e questo spettacolo è stato scelto, come dicevo prima, dal gruppo degli studenti del liceo psicopedagogico, è stato scelto tra una rosa di spettacoli che gli abbiamo proposto, e loro l'hanno scelto non perché non sia un bello spettacolo, ma diciamo la scelta non è stata dettata da questo quanto dal tema affrontato dallo spettacolo, che è un racconto in prima persona di Alexandro Smemetai, che è appunto l'attore che mette in scena lo spettacolo e che è un attore albanese che è arrivato in Italia quando aveva pochi mesi, e quindi è cresciuto come cittadino italiano ma non italiano. Ecco, tra l'altro il tema è anche attuale rispetto alla questione dello ius soli. Sì. Posso andare avanti? C'è tempo? Mi sto dilungando troppo? Vai. ti sento anche abbastanza rapido comunque. Poi appunto nel pomeriggio invece ci sarà una parte dedicata agli operatori teatrali e agli insegnanti, con un workshop che si chiama Teatro in Educazione, condotto da Fabrizio Castanelli, che è uno, diciamo, dei più importanti operatori in Italia, che si è dedicato al teatro per le nuove generazioni, al fare teatro, quindi più che al vedere teatro, al fare teatro, all'utilizzo del teatro come, come strumento anche educativo per i giovani, per i ragazzi, quindi una parte più per operatori. Dopodiché prendiamo un pullman e portiamo alcuni spettatori aretini a Sansepolcro, come dicevo prima, per vedere Queen Lear. È un lavoro, Queen Lear è fatto da un gruppo di drag queen che come dire, parte diciamo da Re Lear, ma è uno spettacolo molto divertente e la compagnia è in residenza a Sansepolcro, quindi quello che vedremo non è la versione finale dello spettacolo, ma un lavoro work in progress. Sabato avremo al mattino un laboratorio condotto da Simone Pacini sull'uso dei social media, social media storytelling, quindi come raccontare il teatro, come raccontare lo spettacolo utilizzando i social media. Questo gruppo e poi chi vorrà alle 12 potrà visitare la macchina scenica del Teatro Petrarca, mentre i Family Floors allestiscono lo spettacolo e quindi anche incontrare la compagnia in questa fase dell'allestimento, che di solito il pubblico non vede lo spettacolo quando è già pronto, montato, e invece chi verrà a questo incontro potrà incontrare la compagnia nella fase del montaggio proprio dello spettacolo. E poi andrà in scena alle 21 appunto lo spettacolo Hotel Paradiso dei Family Floors. Ma subito prima il gruppo, tutti come dicevo, sabato pomeriggio si incontrano gli spettatori, ci sono circa 20 gruppi di spettatori organizzati che vengono più o meno da tutte le regioni italiane, che si danno questo appuntamento ad Arezzo per confrontarsi sul proprio lavoro, sulle proprie esperienze, e che poi alle 19 faranno a sorpresa un flash mob in un punto del centro storico, che ovviamente non si sa qual è, ma insomma se no non sarebbe un flash mob. Domenica chiudiamo con un'iniziativa la mattina che si intitola Suoni Erranti, alla quale partecipano quattro cantautori della scena contemporanea: Cristiano Godano, Paolo Benvenu, Riccardo Sinigalli e Alessandro Fiori, che si esibiranno per piccoli gruppi di spettatori, non più di 40-50, in luoghi di particolare interesse storico della città, quindi la Fortezza Medicea, la Casa Museo di Ivan Bruschi, la sede di un quartiere storico della città che affaccia su Piazza Vasari. Quindi sarà una modalità di approccio, ovviamente saranno da soli con la propria chitarra, in forma acustica, quindi sarà un modo molto intimo di partecipare a questi concerti, e itinerante, cioè il pubblico dovrà, come dire, guadagnarsela, camminare, girare per la città e andare ad assistere alle performance di questi quattro cantautori. La chiusura è di nuovo un film, il film 7 minuti su testo di Stefano Massini. Questo film che ha la particolarità di essere stato prima uno spettacolo teatrale, appunto di Stefano Massini, e poi è diventato un film con la regia di Michele Placido, e alla proiezione, e quindi poi per incontrare il pubblico, sarà presente Ottavia Piccolo, che è una delle protagoniste, anzi diciamo la protagonista principale del film. Ecco qua, sono 20 appuntamenti in 5 giorni, c'è da trottare, però penso che sia una bella esperienza. Ecco. Sì. Allora confermo e ti chiedo in chiusura i riferimenti web per il programma. Giusto, bravo. Allora il sito ufficiale è quello degli Spettatori Erranti, quindi spettatorierranti.it oppure reteteatralearetina.it, sono i due siti di riferimento dove si possono trovare tutti i dettagli. Bene, allora Massimo, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille, ciao, ciao. Grazie.